Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Sapevate che anche le piccole e medie imprese manifatturiere possono, nell'era della globalizzazione, dell'ingigantirsi della finanza d'impresa, sfidare i colossi? Sapevate che è possibile che un italiano di medie dimensioni si metta in competizione e vinca sul piano dei nuovi prodotti manifatturieri con le multinazionali? In questa puntata di Fabbrica 2.4 vi diremo come questa cosa è possibile. Prima però bisogna che abbiate un attimo di pazienza e che ci permettiate di inquadrare il contesto. Intanto, la musica per pianoforte e violoncello che state ascoltando si chiama Accordo di Verde e di Blu ed è stato composto dalla pianista Tatiana Pavlova per l'occasione dell'inaugurazione del centro ricerche di Isagro che è stato fatto a Novara l'anno scorso. La composizione è anche frutto di un concorso indetto nell'ambito del Festival Paganiniano di Carro. Isagro è la protagonista di questa puntata. Il verde è la natura, il blu è l'acqua. Isagro si occupa di crop protection, cioè la scienza per la protezione delle colture agricole dalle malattie e dai funghi. Isagro è un'azienda chimica italiana e tra le maggiori società italiane nel suo settore, che può anche essere definito come agrofarmaci, e soprattutto è quella azienda che si propone di competere dal basso dei suoi 150 milioni di euro di giro d'affari con colossi come Sumitomo, come Bayer, come BASF e altri che fanno invece miliardi di euro di giro d'affari. E il suo CEO e fondatore Giorgio Basile, che qui ospite da noi, ci spiegherà come vogliono fare. Buongiorno dottor Basile. Buongiorno a voi. Poi ci collegheremo con Roberto Crapelli, che è il numero uno della Roland Berger, il quale ci spiegherà come si può crescere e fronteggiare i grandi restando piccoli e se si può e come questo avviene nel contesto dell'industria manifatturiera italiana, della quale Crapelli, che prima di guidare Roland Berger guidava Tichern, è un grande conoscitore. Ma entriamo in res. Mi dica, Basile, come fa un nano a tenere il passo dei giganti proprio nei terreni della ricerca dei nuovi prodotti? Fa cercando di capire come si può giocare la partita, che poi la partita non la si gioca per vincerla, ma per riuscire a rimanere un decente operatore con risultati soddisfacenti. Come si fa a capire come è giocabile la partita? E qui dipende da quali sono i punti di forza di cui dispone questo operatore medio nell'accezione italiana. Fatemi dire, forse per le definizioni italiane e europee addirittura neanche medio e anche di più, però nel panorama globale del settore in cui opera è decisamente un operatore piccolo. Ma il punto qual è? Il punto è che si può operare o lavorando soltanto a livello distributivo e formulativo, e lì la dimensione non è un problema. Ma quando invece, ed è il caso di Isagro, proprio il cuore dell'attività è la capacità di inventare nuove molecole, allora la domanda diventa veramente delicata. Ma com'è possibile che uno non grande possa giocare questa partita? Certo, perché per fare la ricerca di nuove molecole chimiche, soprattutto in un settore delicato come il vostro, sono necessari milioni di euro di investimenti e poi ancora di più bisogna investire per sviluppare queste molecole chimiche, per produrle. Quindi voi avete deciso che fin dove riuscite ad arrivare fate la ricerca e sviluppo e poi le date in licenza ad altri più grandi qualora voi non abbiate le risorse necessarie per produrle o comunque riteniate che sia più comodo e più efficace sul piano della creazione del valore fare così. Lei mi sta togliendo la risposta, ma sostanzialmente accentrato il problema. Però vorrei correggere, non si tratta di produrre, il problema non è la produzione. Noi per esempio abbiamo 4 fabbriche, 3 localizzate in Italia, 1 in India, con le quali siamo completamente integrati. Il problema è che per sviluppare in modo adeguato commercialmente nel mondo un prodotto occorre cifre nell'ordine di grandezza di 100-200 milioni di euro. E si capisce facilmente che con 150 milioni di fatturato non si può andare incontro a quel livello di investimento. Allora, mentre lo scoprire qualcosa è difficile ma non è straordinariamente oneroso, e lo svilupparlo che è molto oneroso, a quel punto noi da 3 anni abbiamo capito come giocare la partita e cosa facciamo? Sviluppiamo direttamente il pezzetto, mi faccia dire, di torta che riusciamo a fare per noi, ma la gran parte della torta la facciamo sviluppare a terzi, dando in licenza il diritto contro un pagamento iniziale e la fornitura a lungo termine del principio attivo che sarà quello che è il nuovo medicinale. Licensing. Noi lo chiamiamo licensing, sì. Dare in licenza a qualcuno. Quindi voi certe volte inventate, sviluppate, producete e commercializzate. In altri casi inventate e poi date in licenza, giusto? Di fatto oramai i casi in cui inventiamo qualcosa e possiamo svilupparlo da solo, per i costi che si sono raggiunti, che le dicevo tra i 100 e i 200 milioni di euro, e i 12 anni di tempo per portare un prodotto sul mercato, di fatto per la nostra dimensione non è più possibile sviluppare da soli, ma l'unica formula seguibile che stiamo attuando da 3 anni, e devo dirle che in 3 anni abbiamo già realizzato valori per 19 milioni di euro attraverso accordi con 4 controparti, alle quali controparti in 3 casi su 4 forniremo anche il prodotto nel lungo termine. Questo è molto importante. Ecco, voi avete appena firmato 2 accordi di licensing, ce li illustra? Sì, noi abbiamo alla fine dell'anno scorso, a dicembre, firmato 2 accordi. Uno con una società giapponese, la Sumitomo Corporation, in virtù del quale noi abbiamo ceduto una tecnologia produttiva che si lega alla fornitura di un nostro prodotto. E l'altro invece con una società americana, la FMC, che peraltro è il partner nel co-sviluppo di un nuovo fungicida molto importante. In questo secondo caso abbiamo ceduto dei diritti che avevamo a fronte di un pagamento iniziale. Ecco, va detto che il settore nel quale un'azienda manifatturiera chimica come Isagro è protagonista, ovvero le crop protection, è un settore che nel mondo è in larghissima espansione. C'è molto bisogno di fungicidi, di erbicidi e di sistemi per rendere più efficienti le colture, anche perché c'è una crescente necessità, una crescente domanda di biosolution, cioè di questi sistemi basati con soluzioni interamente biologiche. Per avere qualche dato sull'entità di questo fenomeno, ecco una scheda. Il mercato italiano degli agrofarmaci vale circa 800 milioni di euro, pari a circa 1,5% del fatturato globale della chimica in Italia. Isagro, che è una delle aziende più grandi e l'unica quotata in borsa, ha ricavi per 150 milioni di euro, il 13% dell'intero mercato. Il settore degli agrofarmaci investe il 6% del suo fatturato complessivo, 49 milioni di euro nel 2013, in ricerca e sviluppo. Tutte le aziende associate svolgono una continua attività di ricerca, collaborando con oltre 300 istituti di ricerca presenti in Italia. Si tratta di una vera e propria ricerca made in Italy, che produce ricchezza e conoscenza e che contribuisce a sostenere l'eccellenza della nostra agricoltura. Il mercato degli agrofarmaci ha registrato nei primi 9 mesi dell'anno 2015 un incremento in valore di circa il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la variazione in quantità è stata più contenuta, assestandosi a poco meno dell'1%. La crescita registrata è guidata principalmente dal mercato dei cereali, della soia e del riso. Colture quali vite e orticole registrano variazioni modeste rispetto all'anno precedente, mentre si rileva una riduzione del mercato del mais data da un calo delle superfici coltivate. Allora, Allora, abbiamo qui in linea Roberto Crapelli, che è il numero uno della Roland Berger ed è un grande consulente strategico. Dunque, che cosa ci dice di tutto questo? I piccoli possono rimanere sul mercato organizzandosi con questi sistemi, secondo lei? Sì, sempre di più, in particolare in futuro, grazie anche alle nuove tecnologie di interconnessione che chiamano digitale, chiamano Industry 4.0 con vari nomi. Il caso di Isagro è particolarmente rilevante perché il mondo dove il settore dove opera è ancora più difficile che non il settore, ad esempio, della componentistica automotive o dell'elettromeccanica, ma il concetto è sempre quello, che la Brembo faccia un tipo di freno e lo ceda alla BMW dicendo pensaci tu a sviluppare il sistema intorno, è come se cedessi la licenza nel caso di un principio attivo della Isagro. Questo significa ecco, che si può rimanere piccoli. Perfetto, adesso però ci sono le analisi, le previsioni su un problema che è fondamentale per tutti voi che siete in radio, ovvero il traffico e anche la pubblicità. Ma restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con l'accordo di Verde e di Blu, che parla del verde delle colture agricole e del blu degli agrofarmaci, o che in inglese si chiamano crop protection. Stavamo parlando con Giorgio Basile di Isagro e con Roberto Crapelli di Roland Berger. Allora, dicevamo, Crapelli, ma quindi la fabbrica 4.0 può trovare un'applicazione efficace anche nella chimica, che è un settore al quale difficilmente si pensa, perché invece si tende sempre di più a pensare alla meccanica, all'automotive o altre cose che si toccano e si maneggiano con più facilità. Sì, la risposta è sì, anzi possiamo dire che i primi esempi di fabbrica 4.0 nel senso esteso, quindi collegamento con i fornitori licenziatari a valle, corporations che vanno sul mercato, i primi esempi ci sono stati proprio nel farmaceutico, prima ancora che nella meccanica, nell'automotivo e in altri settori. Ecco, ma lei è stato autore qualche anno fa di un libro che si chiamava L'impresa italiana alla svolta, un libro pubblicato proprio da Sole 24 Ore, nella quale si diceva che un'azienda o nell'ambito del suo settore cresce sempre di più, oppure se non cresce deve chiudere i battenti, muore. E per crescere può fare sviluppo interno, ma soprattutto deve comprare gli altri. Adesso che le regole del gioco sono un po' cambiate, ci sono anche le opportunità aperte dalle nuove tecnologie, queste leggi universali sono ancora valide, oppure con un quadro di alleanze mutevole con strategie particolari non è sempre necessario un aumento dimensionale così forte? Non è sempre necessario l'aumento dimensionale, perché l'aumento dimensionale si fa con l'interconnessione e col mettersi al posto giusto nelle diverse catene di fornitura o catene di valore che si chiamino, cioè i diversi modi in cui ci si passa le cose. Rimane il tema però della finanza, di cui ha parlato l'imprenditore, il dottor Basile. Alla fine, se c'è da fare un grosso investimento per andare sul mercato, se un paese non ha le grandi aziende capofila, è più vulnerabile di un paese che le ha. E questo è un problema che l'Italia conferma quanto si era detto in quel mio libro. Ecco, l'unico modo è cercare di far diventare nel tempo grandi imprese quelle che adesso sono le medie imprese, perché le vecchie grandi imprese, la Fiat, l'Italcementi e compagnia bella, ce le siamo perse tutte, però abbiamo dei campioni nazionali, dei medi campioni nazionali fra i 500 milioni di euro, i 2 miliardi, i 3 miliardi, che nel tempo potrebbero essere le nuove grandi imprese. Sì, con una connotazione, la dimensione in futuro per il mercato dei capitali non sarà il fatturato o la capitalizzazione, ma sarà soprattutto la capacità in che modo l'azienda è connessa nel suo settore, nella sua filiera e quanto pesa in quella filiera. Dopodiché c'è una promessa di futuri profitti e quindi sarà molto più facile avere capitale di rischio di tipo equity o di tipo debito. Ecco, comunque Basile, a proposito di crescita, certo voi fate le alleanze, fate il licensing, fate tante cose per superare l'impasse, ma nel vostro piccolo comunque vi siete dati un piano di crescita abbastanza ambizioso, perché da 150 milioni vi siete proposti nel giro di qualche anno di arrivare a 200. Beh, certamente, perché quello che Roberto Crapelli ha detto è molto importante. La via della crescita è irrinunciabile. Il problema è capire fin dove si può arrivare e come questo è compatibile con una sostenibilità nel lungo termine. Allora, noi due cose abbiamo capito bene. Una, ne abbiamo già parlato, coinvolgere altri nello sfruttamento dell'invenzione, naturalmente non gratuitamente. Secondo punto, crescere commercialmente. Abbiamo creato recentemente la Isagro Singapore, che sarà la holding di 4-5 società nell'area del sud-est asiatico, dove noi assolutamente dobbiamo creare una posizione. Lo stesso sarà nel Medio Oriente, abbiamo un progetto anche in quella zona, e più in generale dobbiamo rafforzare la presenza commerciale. Presenza commerciale, per giocare bene la partita fino al livello del cliente, per quella parte dello sviluppo che terremo per noi. Ecco, e poi voi volete molto crescere in quelle che si chiamano biosolution. Di che cosa si tratta? Ecco, chiariamolo. Biosolution sono tutto l'insieme di prodotti che si basano su materie prime naturali o comunque riproducibili in sintesi, ma che riproducono sostanze già disponibili in natura. Ora, è un filone importante e crescente, è coerente con tutte le attenzioni dell'ambiente, che sono giustamente estremamente alte. Vorrei solo chiarire che è una componente complementare, ma non certamente sostitutiva, del ruolo della chimica di sintesi. Certo, però il bio va terribilmente di moda e quindi lo spazio c'è. Sì, no, ma direi che non solo di moda, è una cosa giusta. Il problema è capire che abbiamo 800 milioni di persone che non mangiano abbastanza e che andiamo incontro a 2-3 miliardi di persone in più nei prossimi 30-40 anni. E allora, siccome la terreno coltivabile non è aumentabile, è evidente che va aumentata la resa per ettaro, e non la si aumenta con fenomeni di moda, la si aumenta con soluzioni scientificamente corrette, a condizione che siano compatibili con tutte le giustissime regole restrittive. Però il bio va visto come una componente molto importante e di peso crescente, non va vista come un fenomeno sostitutivo della chimica di sintesi. Ecco, lei ha appena spiegato perché gli agrofarmaci sono così importanti, e devo dire che questa spiegazione mi fa particolarmente piacere, perché per stupidità, per ignoranza, per adesione alle convenzioni, questo settore viene scioccamente demonizzato e scioccamente criticato. Sembra che dove ci sono fungicidi ed erbicidi tutto muoia, che sia una cosa artificiale, e se uno guarda le pagine di molti giornali e di molti programmi vede molti programmi televisivi, sente sempre tutte queste stupidaggini. La realtà è che gli agrofarmaci sono quelli che permettono lo sfruttamento adeguato delle culture, e sono quelli che permettono di dar da mangiare a tanta gente, cosa che altrimenti sarebbe impossibile. Guardi, è molto semplice. Se domani mattina non si potessero più usare gli agrofarmaci, la metà del cibo disponibile nel mondo non ci sarebbe più. Questo fa capire che anche la metà che rimarrebbe avrebbe dei costi assolutamente non accessibili per la gran parte delle persone. Quindi, mentre è perfettamente corretta e comprensibile tutta l'attenzione sulla tematica dell'ambiente, va altrettanto tenuto presente, su base scientifica e non su base di slogan pubblicitari, l'attenzione alla salute delle piante. Certo, d'altro canto, se l'uomo si cura con le medicine, se gli animali li curiamo con le medicine, non si capisce perché il regno vegetale non possa essere curato con le medicine. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Ecco, ritengo che a questo punto bisogna capire chi è Isagro e che cosa fa, e quindi c'è una brevissima scheda. Isagro è una delle maggiori società italiane e l'unica quotata in borsa nel settore delle crop protection, i farmaci per la salvaguardia delle colture e della vita. È guidata dal maggior azionista Giorgio Basile, che l'ha fondata nel 1993 attraverso uno spin-off da Montedison, per poi portarla in borsa nel 2003. Basile è un manager di lungo corso, con una lunga carriera che l'ha visto in posizione di vertice in Mobil Oil, IBM e Montedison. È stato anche vicepresidente di Assolombarda. In quasi 25 anni di vita, la fisionomia di Isagro è assai mutata attraverso una serie di dismissioni e acquisizioni. Isagro ha ricavi per circa 150 milioni di euro, 5 stabilimenti produttivi e un importante centro ricerche a Novara. Gli stabilimenti produttivi sono ad Adria, in provincia di Rovigo, Aprilia, provincia di Latina, Bussi sul Tirino, Pescara, Pandi, nello stato del Gujarat, in India, e Novara. Recentemente Isagro ha annunciato l'obiettivo di far crescere il fatturato del 25% nel giro di pochi anni, passando da 150 a 200 milioni. Queste ambizioni si spiegano alla luce della crescente domanda di prodotti agricoli, provocata dalla crescita della popolazione mondiale, che nel 2050 sarà di 9 miliardi di persone, oltre il 30% di più di oggi, e dalla diffusione del benessere. Tutto ciò, unito alla deforestazione e desertificazione, fa scendere il terreno coltivabile medio disponibile per persona. Attualmente il mondo ha 0,2 ettari di terreno coltivabile per persona, area dimezzata rispetto agli 0,4 ettari del 1962. Estrapolando la curva esponenziale, scenderemo a 0,1 ettari circa intorno al 2050 e a 0,05 ettari per il 2100. Questo significa che bisogna aumentare la resa delle aree coltivabili e l'unico mezzo che consente di farlo sono gli agrofarmaci. Siamo di nuovo in linea con Giorgio Basile e con Roberto Crapelli e un'altra cosa che volevo dire a proposito di Isagro è che anche se vuole crescere autonomamente, un'alleanza l'ha fatta, ha fatto entrare una multinazionale che si chiama Gowan nel capitale della società, della società controllante. Però questo ingresso di Gowan non è finalizzato, come sempre avviene negli M&A tradizionalmente intese, al fatto che prima o poi si papperà tutta Isagro. Gowan ha fatto questo investimento perché crede in Isagro ed è contenta di rimanere socio di minoranza e lo ritiene profittevole. Così, no, Basile? È assolutamente così, tanto così che la Consob nel 2014, quando si è materializzato l'accordo, ha confermato per iscritto che gli accordi fatti lasciavano assolutamente il controllo dell'Isagro nelle mani italiane, in cui è con il socio di maggioranza che è la società holding PM. Perfetto, allora ultima domanda per Crapelli. Ma si possono fare gli M&A senza pensare di papparsi tutto? Assolutamente sì, soprattutto in questo momento in cui la governance, cioè il modo con cui si controlla un consiglio d'amministrazione o le operatività, permettono di avere il controllo di un'azienda senza avere la maggioranza azionaria. Ah, benissimo. Quindi, insomma, alcune cose dell'impresa italiana alla svolta, quel suo famoso saggio sulle fusioni e le acquisizioni, andrebbero riviste alla luce dell'evoluzione dei tempi? Assolutamente sì, perché sono passati anche 10 anni, quindi è naturale. Certamente. Vabbè, io continuerei a stare con voi per ore, ma il tempo è tiranno. Annuncio che domani alle 13.15 ci sarà una puntata dedicata a Bulgari, alla fabbrica di Bulgari che è stata fatta a Valenza Po e sarà il centro manifatturiero per tutta l'Europa. Saluto il dottor Basile, arrivederci. Grazie dell'opportunità e grazie per la conduzione. E saluto l'ingegner Crapelli. Grazie e buon lavoro.